Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria e una decisione che ha assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. E così ce l'aspettavamo naturalmente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Adesso c'è stata la ufficializzazione questa sera da parte del Presidente del Consiglio Conte della proroga, del prolungamento delle misure restrittive fino al 3 maggio. Naturalmente nessuno è contento, però secondo appunto gli scienziati, in particolare il Comitato Tecnico Scientifico che è consulente del governo, bisogna mantenere ancora queste misure se non si vuole rischiare una ondata di ritorno, insomma poi tutto diventa più difficile. Però ha detto Conte che alcune attività produttive piano piano, gradualmente, in questa fase 2 che si sta preparando, apriranno. In particolare ha parlato di librerie, di cartolerie, di negozi per l'abbigliamento dei neonati. Sapete, i neonati appena vengono al mondo devono essere vestiti e poi man mano crescono, e quindi diciamo uno non ci penserebbe, è una cosa essenziale. Poi vi farò sentire vari passaggi di questa conferenza stampa di questa sera di Conte. Fra le altre cose ha anche attaccato in diretta il segretario della Lega Salvini e la presidente di Fratelli d'Italia Meloni, perché dice che a proposito del MES e delle misure che si è deciso in questa intesa all'Eurogruppo di adottare per affrontare l'impatto economico, dice che Salvini e Meloni diffondono falsità. Subito è arrivata la replica, loro hanno detto invece che la TV di Stato viene usata a scopo di comizio. Insomma, diciamo che quella tregua politica tra maggioranza e opposizione che si era creata è probabilmente, diciamo, è proprio lì in bilico. Approfondiremo anche questo aspetto di politica interna, poi torneremo ancora sulle regole. È cambiato qualcosa quindi da questa proroga fino al 3 maggio? Così faremo un ripasso. Poi c'è una Via Crucis che sta per partire in una piazza San Pietro completamente vuota, ovviamente tutto sta cambiando, non è al Colosseo come da tradizione ma in piazza San Pietro, e tra poco comincerà il Papa in solitudine. Quindi direi di cominciare anche la puntata di Effetto Notte, di entrare nel vivo con i vostri messaggi che potete mandare alla pagina Facebook di Effetto Notte, potete scrivere lì. Oppure sms e whatsapp da inviare al 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi prima sintesi della giornata. La conferenza stampa di Conte, chiusura fino al 3 maggio, non possiamo cedere ora, dice il Presidente del Consiglio, riapriranno prima librerie e negozi di abbigliamento per neonati. E poi l'attacco in diretta a Salvini e Meloni, la replica, la TV di Stato usata per un comizio. I dati del coronavirus in Italia sono complessivamente 98.273 i malati, le vittime sono 18.849, calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva, controlli rafforzati contro i furbetti della gita Pasquale. Il PD pensa a un contributo per ripartire, dovrebbe venire dai redditi oltre gli 80.000 euro. L'Europa torna intanto a riunirsi il 23 aprile. Immagini shock da New York, fosse comuni per chi non ha soldi o parenti. La strana Pasqua, chiese vuote, questa sera la Via Crucis del Papa in solitaria. Scoperta pubblicata su Science, coronavirus scoperto il motore che lo fa moltiplicare, ora è più facile trovare farmaci mirati. Partiamo quindi appunto dalla conferenza stampa tenuta questa sera dal Presidente del Consiglio Conte. Fra le varie cose ha detto proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, quindi ha ufficializzato il prolungamento, una decisione difficile, l'ha definita, ma necessaria, di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Poi ha detto non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, si rischierebbe un aumento dei decessi e delle vittime. Poi l'auspicio, ha detto, è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità, ma ripartire dipenderà dai nostri sforzi, e sentiamolo sulla ripartenza. Sicuramente ipotizziamo una ripresa delle attività a pieno regime, ma con protocolli di sicurezza sanitari molto rigorosi. Quindi dovremo convivere con il virus, perché il virus non riusciremo a debellarlo. E seppure oggi potessimo ipotizzare che tra qualche settimana, qualche mese riuscissimo a espungerlo dal nostro territorio, dobbiamo sempre essere attenti, ci potrebbe essere un contagio di ritorno. e poi vi farò sentire anche gli altri passaggi insieme agli ospiti. Poi ha detto probabilmente dal 14 aprile saranno aperte cartolibrerie e librerie e anche negozi per neonati e bambini, e poi ripartiranno le attività legate ai boschi, al taglio dei boschi. Ha anche detto Conte: ho firmato il decreto per il comitato di esperti che affiancherà il comitato tecnico scientifico nella fase 2, sarà presieduto da Vittorio Colao, e sull'accordo con l'Unione Europea ha attaccato Salvini e Meloni accusandoli di dire falsità sul MES. Poi comunque ne parliamo nel corso di questa puntata. Adesso andiamo sui numeri, sul bollettino fornito ogni giorno relativamente al coronavirus da parte della Protezione Civile. Il numero dei contagiati totali del coronavirus in Italia, compresi morti e guariti, è di 147.577. Più in specifico, sono complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.396. Sono 18.849 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 570 morti. Calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva e sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno rispetto a ieri. E poi dati anche della Lombardia, dove da qualche giorno osservata speciale è Milano. Abbiamo un dato importante, le terapie intensive che diminuiscono di 34 persone, qui arriviamo al dato più brutto che è quello dei decessi, che più 216 nell'ultimo giorno, sono meno di quelli di ieri ma sono ancora tanti. È il vicepresidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala, a rendere noti oggi i dati sui contagi in regione, dati che migliorano, lo abbiamo sentito, ma troppo lentamente, 56.048 i positivi, 10.238 finora in totale i decessi, molti però anche i guariti, 983 in 24 ore. Solo in lieve calo i contagi a Milano, la città che al momento preoccupa di più. Ieri erano 155. Nel comune di Milano, quindi Milano città, 5.106, 127 casi in più. La curva migliora, ha avvertito Sala, ma troppo lentamente. Abbiamo solo in questo momento un'arma, che è quella dell'isolamento, quindi una Pasqua assolutamente casalinga. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pasqua casalinga, per cui ovviamente ci saranno rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine, ne parleremo poi con la portavoce dei funzionari di polizia. Intanto torniamo sulla politica. Dal Partito Democratico arriva la proposta di un contributo di solidarietà per i redditi sopra gli 80.000 euro l'anno. Scatena l'opposizione, ma spacca la stessa maggioranza la proposta lanciata dal Partito Democratico. La crisi economica da coronavirus, scrive il capogruppo Dem alla Camera Graziano Del Rio, ha fatto emergere situazioni di grave povertà. È giusto che i redditi più alti siano chiamati a contribuire. La tassa colpirebbe chi guadagna più di 80.000 euro sulla parte eccedente tale soglia e per 2 anni, con aliquote dal 4% fino a 100.000 euro per arrivare all'8% per chi guadagna oltre 1 milione. Il gettito atteso è di 1,3 miliardi. Gli italiani con oltre 80.000 euro di reddito sono 800.000, il 2% dei contribuenti. L'opposizione parla di patrimoniale, di misura lacrime e sangue, un vero e proprio esproprio a carico di chi lavora. Ma parlano di patrimoniale e bocciano la proposta anche gli alleati di governo. Ettore Rosato di Italia Viva e Vito Crimi 5 Stelle, per il quale le risorse vanno trovate dall'Europa e tagliando gli sprechi, come la TAV. Favorevoli solo Fratoianni e Boldrini di LeU. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente le varie proposte e le strategie dovranno conciliarsi con le posizioni europee. Il giorno dopo la faticosa intesa all'Eurogruppo, che mette sul piatto al momento 540 miliardi reali per il piano anticrisi pandemico, si guarda già al vertice straordinario dei leader europei in calendario giovedì 23 aprile, e già dalla data si intuisce che il lavoro per il nuovo fondo per la ripresa, che la Francia ipotizza di 500 miliardi, è tutto in salita. Non più una, ma ben 2 settimane di tempo per provare a costruire questo fondo temporaneo mirato e commisurato ai costi straordinari della crisi, come si legge dal comunicato finale dei ministri della zona euro. Il pomo della discordia restano i corona bond, un'idea che l'Italia continua a portare avanti col ministro dell'economia Gualtieri, che anche nelle ultime ore ha assicurato: non chiediamo la mutualizzazione del debito passato, ma che le risorse necessarie per la sfida contro il virus siano risorse comuni. L'omologo olandese Hoekstra continua a rispondere picche, e il presidente europeo Michel, che ha convocato il prossimo vertice, parla di un'intesa significativa raggiunta all'Eurogruppo e lascia la porta aperta sul piano di rilancio. Anticipa solo che farà sicuramente leva sul prossimo bilancio settennale europeo per peraltro ancora da definire. Al cosiddetto Fondo per la Rinascita, come la prossima sfida da superare, guarda anche il commissario europeo Gentiloni, segno che sarà quello il vero banco di prova di un'Unione Europea che giovedì sera ha fatto solo la metà dei suoi compiti di fronte a una sfida epocale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è stato stimato in uno scenario di fine epidemia a giugno il fabbisogno di liquidità nel 2020 in 30 miliardi di euro, di cui gran parte necessari tra aprile e giugno, stima così il centro studi di Confindustria. Un appello all'Europa arriva dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, così ha parlato questa mattina a 24 mattino qui a Radio 24. Occorre avere chiaro di combattere due battaglie, una al virus e a contagi e l'altra ad evitare che una recessione che purtroppo subiremo non diventi addirittura depressione, come indica Draghi. La consapevolezza in chiave europea, grazie anche all'asse franco italiano e spagnolo, comincia a dare un primato alla politica europea, perché si è passati in questi giorni dal dibattito sugli strumenti al dibattito sui fini, cioè cosa dobbiamo fare, da cui farne derivare strumenti e risorse. Qui serve sia il MES senza condizioni sia gli Eurobond, perché noi abbiamo tre fasi davanti a noi. Una, garantire la liquidità di breve alle imprese europee. La seconda è quella di cominciare a pensare a come riaprire con un rallentamento compatibilmente con le indicazioni della comunità scientifica. E la terza è compensare con una forte operazione di investimenti pubblici europei la domanda privata che ripartirà, ma ripartirà gradualmente. E adesso passiamo alla situazione determinata dal coronavirus in Europa. Covid-19 rallenta in Europa e accelera in Africa, lo ha detto il direttore generale dell'OMS nel consueto briefing. Il paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti resta però un paese europeo, la Spagna, con 157.000 casi e oltre 15.800 morti. La Germania e la Francia hanno lo stesso numero di contagiati, poco superiore a 118.000 per paese, ma mentre in Francia i morti hanno superato i 12.000, la Germania si ferma a 2.700. C'è da dire che Berlino partiva a inizio epidemia con 6 posti in terapia intensiva ogni 1000 abitanti, mentre la Francia si fermava a 3 ogni 1000. Il Portogallo ha esteso il lockdown fino al 1° di maggio. In Ungheria il primo ministro Orban ha annunciato un'estensione indefinita delle misure di blocco. In Svezia una nuova legge varata dal Parlamento darà al governo svedese nuovi poteri per gestire la crisi. Tuttavia il paese continua nella sua politica del buon senso senza lockdown. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma l'immagine shock arriva in particolare dagli Stati Uniti, con bare sepolte una accanto all'altra in fosse comuni vicino a New York. Gli Stati Uniti hanno registrato altri 1783 decessi in 24 ore. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Tra le varie scoperte, questa sul coronavirus, è stata descritta la struttura del motore molecolare che permette al virus Covid-19 di moltiplicarsi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, rende più facile mettere a punto farmaci mirati contro il Covid-19. Il motore è l'enzima polimerasi NSP12, lo stesso che è bersaglio dell'antivirale Remdesivir, utilizzato contro il nuovo coronavirus, ma nato come arma anti-Ebola. Autore della ricerca è il gruppo di Yangao dell'Università Tsinghua di Pechino. E ora di nuovo in Italia. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Oggi si sono celebrati 100 anni dalla nascita di Nilde Iotti, una donna passata dalla lotta per le donne e poi dalla lotta con le donne partigiane fino agli scranni del Parlamento, paladina della battaglia per l'emancipazione femminile. Nilde Iotti è stata una delle figure più importanti della storia italiana e della nascita della Costituzione. Oggi l'ha voluta ricordare il presidente Sergio Mattarella, ha detto: il suo percorso civile e politico reca e impressi i caratteri di quella straordinaria crescita democratica che ha consentito al nostro popolo di liberarsi dal fascismo, di dotarsi di una Costituzione rispettosa degli originari e inviolabili diritti della persona, di progredire nel benessere economico e nella solidarietà sociale, ricordando Nilde Iotti, appunto, che è stata tra l'altro prima donna presidente della Camera. La cronaca: un pregiudicato italiano di 54 anni è stato arrestato ieri sera per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri a Renazzo, nel Ferrarese. I militari sono intervenuti in una casa su richiesta della compagna convivente dell'uomo, italiana, coetanea, che ha denunciato di aver subito un'aggressione e altre vessazioni. Anche di fronte ai carabinieri l'uomo ha continuato a minacciare di morte e a colpire la donna prima di essere bloccato e portato in carcere. Vi ricordo che il numero per le donne che subiscono violenza, che abbiamo detto tante volte, è un momento ancora più difficile per loro, chiuse appunto in questa forzata clausura in casa, è il 1522, che è sempre attivo, 1522, altrimenti anche le forze dell'ordine, il 112 e il 113. E a Benevento, vicino Benevento, a Airola, un ingegnere cinquantenne ha colpito la moglie a martellate e poi ha provato a togliersi la vita. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha colpito la testa a sua moglie ferendola gravemente e poi, dopo aver allertato il 118, ha tentato di uccidersi. Sono stati portati entrambi in ospedale. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni, mentre decisamente più critiche sono quelle della donna. E questa è una Pasqua naturalmente diversa dalle altre, tra l'altro con le chiese vuote, quella che sarà celebrata domenica, come senza la presenza del popolo viene celebrata oggi la Via Crucis del Papa. Come vi dicevo, in questa emergenza sono stati trovati tanti modi diversi anche per far arrivare il conforto soprattutto agli ammalati. Sono già 99 anche i sacerdoti che hanno perso la vita contagiati dal coronavirus, ma anche molti anche nella Bergamasca. A Nembro, uno dei paesi più colpiti dal virus, solo Don Matteo non è stato contagiato. L'ha intervistato Raffaella Calandra e questa è una breve anticipazione del reportage che andrà in onda domani mattina alle 8:15. A Bergamo abbiamo avuto tantissimi decessi di sacerdoti. La chiesa bergamasca è molto colpita, forse uno dei motivi è anche la vicinanza alle persone che comunque si è cercato di mantenere nelle forme e nelle modalità che comunque le circostanze rendevano possibili. Ci aspettiamo che questa Pasqua, che purtroppo non possiamo celebrare con le persone, non ci si può stringere la mano, farsi gli auguri e condividere un momento di gioia, cioè che comunque questa Pasqua rappresenti l'inizio di una rinascita e che comunque sia un segno che dia forza, passione per la vita. Ci riportano da un lato all'essenziale, che forse è anche uno dei risvolti con i quali stiamo vivendo questa esperienza drammatica dell'emergenza coronavirus, no? Ritrovare le cose che davvero ci sono essenziali e alle quali non possiamo fare a meno, e dall'altro che ci restituisca uno sguardo lungo sull'orizzonte, un po' fiducioso, che ci permette di dire davvero ce la possiamo fare. E è in corso, come vi dicevo all'inizio, la Via Crucis, una Via Crucis molto particolare nel piazzale di San Pietro, non al Colosseo come da tradizione ovviamente per le misure prese per il contenimento del coronavirus. C'è il Papa che è da solo, in realtà ci sono alcune persone in rappresentanza, ci sono alcuni sacerdoti e delle altre persone che evidentemente rappresentano delle categorie. Sentiamo, vedo il Papa inquadrato adesso, vediamo se parla. Che ci hai donato il tuo unico figlio, glorificandolo sul trono della croce. Infondi nei nostri cuori la tua speranza per riconoscerti presente nei momenti bui della nostra vita. E tra poco poi ci ritorniamo nel corso di questa puntata. Intanto Andrea Bocelli, tenore, domenica, giorno di Pasqua, sarà nel Duomo di Milano, completamente vuoto, per un concerto unico che sarà trasmesso in streaming mondiale. Anche il Papa è in mondovisione. Dicevo, Andrea Bocelli, in un momento buio per tutto il mondo, alle prese con la lotta contro il coronavirus. Ha detto Bocelli: ringrazio Milano e il Duomo per l'invito, per questa straordinaria occasione. Il canto, dice Bocelli, può essere una forma di preghiera ed è questo il mio obiettivo, il mio intento, la mia gioia, pregare insieme. Oh, voglio alleggerirvi con una cosa che è successa a Prato, con una scorta municipale speciale per una famiglia di paperelle. Gli agenti della polizia municipale si trovavano in via Gherardi a Prato, vicino a un supermercato, per verificare la presenza di assembramenti, e quando hanno scorto una famigliola di papere che percorrevano la via per rientrare velocemente sul lungo Bisenzio, il fiume Bisenzio. Gli agenti, si spiega dal comune pratese, hanno scortato mamma e anatroccoli al seguito dell'attraversamento dei viale Galilei, fermando lo scarso traffico per far arrivare le papere sull'argine del Bisenzio, del fiume. Pensate la bellezza di queste papere, che di quello che sta succedendo non ne sanno nulla. È il bello questo, in particolare in questo momento, degli animali, insomma, anche dei nostri cani, dei nostri gatti, ho detto più volte, anzi, che danno allegria, proprio perché guardandoli si può sorridere e si sente tutta la loro innocenza e inconsapevolezza che ci alleggeriscono. In certi casi, ho detto anche altre volte, i cani che ci portano a spasso, che portano a spasso i loro padroni, più che in questo periodo così buio, il contrario. C'è poi lo sport. Il presidente della FIFA, del massimo organismo europeo del calcio, Gianni Infantino, in una nota diffusa dall'ente calcistico mondiale, ha detto: non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita, una competizione, un campionato. campionato. Tutti dovrebbero tenerlo a mente, quindi sarebbe dei responsabili riavviare l'attività se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po', dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po' che non correre dei rischi, ha detto Gianni Infantino, appunto presidente dell'Organismo Mondiale del Calcio. Per chiudere, la musica. Smetto di farmi le pare per te, mi sa che smetto coi farmaci e con i caffè, ma non so. Poche novità nella classifica di questa settimana discografica, anche a causa del quasi totale immobilismo nelle nuove uscite discografiche per via dell'emergenza coronavirus. Marrakesh, che state sentendo, si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni FIMI GFK, con l'album Persona uscito già da 23 settimane. Bene, con questo direi che si chiude questa prima parte di Effetto Notte, così possiamo addentrarci in alcuni temi in particolare con gli ospiti. Tra pochissimo torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie di questo ultimo giorno della settimana prima di Pasqua, Roberta Giordano sempre con voi. Adesso comincio a salutare gli ospiti e con loro a occuparci di alcuni temi in particolare primo piano di questa giornata. Intanto la saluto tra poco perché volevo prima, stavo guardando diversi messaggi che stanno arrivando. Per esempio dice Marcello a proposito delle fosse comuni a New York, che sappia io lo fanno dal 2015, non per il Covid. Poi chiederemo al nostro corrispondente dagli Stati Uniti, mi sembra una cosa abbastanza terribile, ma immagino che questo sia però un momento decisamente diverso. E poi invece dice qualcuno che sta criticando appunto la conferenza stampa di Conte, qualcun altro lo appoggia, come sempre naturalmente ci sono posizioni diverse. Intanto vedo che ci sono anche delle reazioni ulteriori da parte di Meloni e Salvini, di cui darò conto tra poco. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Allora, due cose relativamente a questa conferenza stampa di Conte, tanto per cominciare, poi ce ne sono molte altre. Una è che ci si aspettava naturalmente l'ufficializzazione, era già diciamo nelle cose da qualche giorno che ci sarebbe stata una proroga delle misure restrittive di altri almeno 14 giorni ed è stato appunto ufficializzato che queste misure andranno avanti fino al 3 maggio. Dopodiché è anche chiaro che tutti quanti, naturalmente prima di tutto per quanto riguarda l'economia, ma anche poi da un punto di vista delle nostre esigenze personali, libertà individuali, aspettiamo che ci sia data una prospettiva per capire quanto ancora bisogna resistere. E saluto Barbara Fiammeri, perché Barbara, ho cambiato idea. Ieri ti avevo salutata, ti avevo chiesto cosa mangiavi, hai fatto una lista culinaria pazzesca per Pasqua, però ho detto già mi manchi ed eccoti qua. Ancora. Sì. Nel frattempo ho fatto la pastiera, però. Brava, ma la sa fare bene, proprio la napoletana sicura? Ma no, non sono brava. L'importante però, insomma, è provarci. L'impegno, no? L'impegno è meritevole. Puoi sempre mandarmene in spedizione, vediamo un pezzettino, magari arriverà tra una qualche settimana, prima o poi ci sarà. No, devo ringraziare veramente i corrieri, i spedizionieri, tutti che stanno lavorando moltissimo in questo periodo. Farei sentire un altro dei tanti passaggi di Conte, sempre in questa conferenza stampa di questa sera. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Poi ha detto che alcune attività potrebbero già aprire dopo Pasquetta, potrebbero essere, sempre dice, consultando però il Comitato Tecnico Scientifico, per esempio le librerie, per esempio le cartolerie o i negozi per bambini neonati, per abbigliamento dei bambini neonati, e anche la silvicoltura, cioè la cura dei boschi, il taglio della legna, eccetera. E poi ha detto siamo già al lavoro per la fase 2. Il lavoro per la fase 2 è un lavoro già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza attraverso un programma articolato, un programma organico. Stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi del lavoro. Oh, Barbara, e quindi ha detto che quindi sta già lavorando il governo per la fase 2, sempre in rapporto con il Comitato Tecnico Scientifico, però ha annunciato anche una nuova task force guidata dall'ex amministratore delegato di Vodafone Colao, con il compito di affiancare appunto il Comitato Tecnico Scientifico e stabilire il percorso per la riapertura del paese, perché adesso è necessario avere questa prospettiva, Barbara, no? Beh, sì, anche perché se non riapriamo, come dire, crolliamo definitivamente. Il tema della riapertura è un tema delicatissimo, si è visto anche in Cina, dove ovviamente, essendo un paese non democratico, diciamo da un certo punto di vista è più semplice, no? Sono pochi a decidere, non è che le aziende sono di Stato, quindi molte aziende sono di Stato e comunque è lo Stato che decide tutto. E lì anche ci sono state, anche lì, per questo dicevo, parecchie titubanze, no? In alcuni momenti, se riaprire o non riaprire, perché anche loro hanno subito un crollo drammatico del PIL, però hanno aspettato, a Wuhan hanno aspettato 3 mesi. Anche se si dice sempre, Barbara, che però Wuhan è solo una città dentro una provincia, intorno c'è tutta la Cina che ha continuato ad andare avanti, a lavorare, però, a produrre. Noi purtroppo la nostra Wuhan l'abbiamo nella regione più importante d'Italia, che è la Lombardia. E quindi siamo stati colpiti al cuore da questo punto di vista. Cioè, un'altra regione avrebbe, è brutto dirlo, però economicamente avrebbe fatto meno danni, ecco, questo voglio dire. Anche se ormai, diciamo, termini, è sparso dappertutto, ma più in Lombardia, no, dico, sappiamo, in certo, termini di salute pubblica magari no, perché comunque la risposta che c'è stata in quella regione è stata una risposta importante, però in termini economici sicuramente è stato colpito il cuore produttivo del paese, quindi è chiaro che noi subiamo dei danni terribili da questo punto di vista. Quindi prima si riapre e meglio è. Il problema è che però, al di là delle dichiarazioni enfatiche del Presidente del Consiglio, c'è un tema che è appunto quello di garantire da un lato la sicurezza dei lavoratori, di chi lavora, però allo stesso tempo anche dare gli strumenti ai datori di lavoro e alle aziende per garantire questa sicurezza. Perché insomma, come sappiamo, ancora oggi chiunque di noi non trova le mascherine, o comunque le trova magari a dei prezzi che non è pensabile che un'azienda possa sostenere. Io ho trovato delle mascherine a 8 euro, sì, 9 sì, euro. Sì. Ecco, cioè non ancora è pensabile, adesso, certo, che ogni giorno, magari più volte al giorno, per centinaia di dipendenti le aziende debbano sopportare un costo del genere, perché anche questo poi ha delle conseguenze. Le mascherine è l'ultima cosa, però voglio dire, pensiamo al distanziamento, cioè ci sono tutta una serie di elementi che saranno delicati da affrontare, quindi ci si sta lavorando, ci stanno lavorando anche le stesse aziende, che sono le prime a voler tornare rapidamente alla produzione. Il pressing è fortissimo da parte delle aziende ed è comprensibile, così come altrettanto comprensibile è la prudenza del governo e degli esperti sanitari, perché ovviamente poi ognuno fa la sua parte, e quindi da un lato c'è chi vuole tornare presto in produzione perché teme di vedersi tagliato fuori dai mercati, perché è chiaro che nel frattempo altrove si sta continuando a produrre, e quindi se non trovano l'acciaio da noi piuttosto che certi componenti, magari le trovano in Polonia o da un'altra parte, e quindi a quel punto si instaurano dei rapporti che tagliano fuori quelle imprese che prima invece avevano delle quote importanti in, ecco, mercati. Questo dal punto di vista molto molto concreto, e di qui non sì, si sfugge, Barbara, ovviamente abbiamo detto sì, che poi per la sicurezza della salute della popolazione italiana bisogna sentire costantemente il parere dei scienziati, e però da un punto di vista così di prospettiva anche psicologica, no? Sì. Può fare di più il governo con un tipo di comunicazione diversa, oppure se le cose stanno così c'è poco da curare anche questo aspetto, nel senso che Per esempio, io ho l'impressione, ma credo che forse non si possa fare diversamente, che come si dice ai bambini piccoli, no? Quando sono tanto in macchina, in viaggio, quando si arriva, dici sempre, vabbè, guarda, tra cinque minuti, oppure quando li si porta a passeggio, che sono stanchi, dai, ancora 100 metri, magari sono ancora 10 chilometri da fare a piedi, no? Però sì, non so. È vero, anch'io ho avuto, mi è venuto in mente lo stesso tipo di confronto, perché mi ricordavo proprio quando io ero piccola. Quando arriviamo. E quindi sì, ci sta. La cosa che penso è che però noi siamo adulti, anche se a volte non ci comportiamo come tali, e quindi secondo me dobbiamo avere la maturità, dici, di capire che non è che si possa dire vabbè, facciamo quella ma data non solo, lì. Ma anche da parte di chi comunica, secondo me, ci deve essere. Cioè, dire le cose come stanno, nel senso, faccio un esempio, no? Noi sentiamo continuamente parlare di numeri, anche quando sentiamo queste conferenze stampa della Protezione Civile, oppure dei giudizi molto sta andando meglio, ma oggi non è più così, non sta andando così bene, oggi c'è stato un rallentamento, cioè dei giudizi un po', direi, mi viene da dire, uso un'espressione forte, un po' superficiali, soprattutto se detti da degli esperti, dei tecnici, credo che ci sottovalutino, cioè sottovalutino noi cittadini, che forse possiamo anche comprendere qualcosa di più, tant'è che molte persone, non so se a Roberta ti è capitato anche a te, sostengono che a volte ci diano, un po' perché noi siamo dei complottisti noi italiani, ma sostengono che stanno dicendo, adesso hai visto, stanno dicendo che le cose vanno di nuovo male perché hanno paura per Pasqua che usciamo. Cioè, no, beh, questo persone... basta vedere, io sono qui in Lombardia, sono qui a Milano e ho persone carissime che abitano a Bergamo, anche molto vicino all'ospedale, quindi insomma c'è poco da stare lì a pensare che le cose non sono così difficili, così dure, così drammatiche come si dice, insomma, come sì, si però racconta. L'Italia è grande, non c'è solo la Lombardia, non so, c'è solo, capito? Quindi l'atteggiamento che tu hai altrove, secondo me, è un atteggiamento più superficiale. Poi, dopodiché, è evidente che è da un mese che siamo confinati dentro casa. Quindi le tensioni anche all'interno, familiari, aumentano. Io la percezione di un aumento, come dire, del nervosismo, sì, bisogna anche andando a fare la spesa. Sì, cioè, sì, certo. Bisogna... I sorrisi, la solidarietà, le quella iniziale, non più. Adesso c'è molta diffidenza, tutti che ci si guarda un po' in cagnesco, sì, tu tieni distanza, sì, tu non mi guardare, tu un po' così. Cerchiamo però di mantenere la nostra umanità, sì, anche se a distanza. Barbara, senti, ti farei sentire anche Conte, anche se abbiamo ancora poco tempo, Barbara, anche se con te, sai, starei tutto il tempo. Conte sull'Europa, l'intesa che è stata raggiunta in sede di Eurogruppo dopo travagliate trattative, non è ancora, diciamo, il massimo. Sia il Conte che il ministro dell'economia Gualtieri hanno parlato di un primo passo. Sentiamolo Conte, che dice: in Europa primo passo ma non basta. Le proposte che ieri sono state messe sul tavolo dei leader e dai ministri delle finanze dell'Eurogruppo sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro, ma è un primo passo che l'Italia, e su questo siamo pienamente d'accordo con il ministro Gualtieri, giudica ancora insufficiente. Su questa base occorre lavorare ancora per costruire qualcosa di ancora più ambizioso. E ha sottolineato, ribadito ulteriormente Conte: noi come governo italiano per gli eurobond, non so se si raggiungeranno mai questi eurobond, Barbara, però c'è da dire che si è segnato anche una nuova crepa all'interno dei rapporti tra maggioranza e opposizione, perché poi Conte, sempre in questa conferenza stampa questa sera, ha attaccato direttamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dicendo: adesso faccio nomi e cognomi, perché si comportano in modo irresponsabile, diffondono delle falsità, e questo certamente non aiuta noi ad andare avanti, soprattutto nella trattativa con l'Unione Europea. Salvini e Meloni hanno detto: ecco, usa la TV di Stato per fare comizio. Poco fa Salvini addirittura, vediamo se ritrovo l'agenzia, eccola qua, dice: Conte insulta, chiamerò Mattarella, ha detto. Secondo me questa volta, allora, al di là del merito, su chi ha ragione o chi ha torto rispetto al contenuto, perché Conte ha accusato sostanzialmente i due leader dell'opposizione di mentire, no? E di non fare in questo modo il bene dell'Italia, perché dicendo di ostacolare, portando avanti una certa retorica anti-europea, non aiutano l'Italia nell'affrontare il negoziato. Insomma, sto riassumendo molto molto. Sì, infatti hai bisogno di una sintesi estrema perché siamo quasi in chiusura di questa sì. Non mi è piaciuto il Presidente del Consiglio, devo dire la verità, non mi piace un Presidente del Consiglio che attacca due leader dell'opposizione assenti, non mi piace, è una cosa proprio che non si fa. Cioè, Giorgia Meloni l'ha definito tracotante, ha detto in una conferenza stampa. È una cosa che non si fa, ci sono delle cose che un capo di governo, un leader politico non deve fare, questa è una cosa che non si fa. Probabilmente l'unica giustificazione che do a Conte è che viene da giornate durissime, con uno stress pazzesco, e chiaramente chi invece sta all'opposizione, come ma non Meloni e Salvini, chiunque stia all'opposizione sta in una posizione più comoda, no? È evidente, cioè il peso, la responsabilità delle scelte, dei confronti con l'Unione Europea, ce l'ha il governo, e quindi è inevitabile che questa tensione probabilmente faccia poi fare dei... esprimere il Presidente del Consiglio in modo, secondo me, poco istituzionale da questo punto di vista. Detto questo, sì. sul confronto europeo, tanto per fare l'estrema sintesi, estrema. Sì. Non mi sembra che si sia andati molto avanti, cioè questa cosa del MES è poco o niente. Per noi, se dovessimo utilizzare il MES, la parte senza condizioni, poi bisogna vedere se è davvero senza Dici condizioni, soltanto i fini sanitari, sono una cosa come 14 miliardi. Invece mi sembra che Conte ha detto abbiamo bisogno di 1500 miliardi. Scusa, ho detto una sciocchezza, sono 30, poco più di 30 miliardi, ne abbiamo però versati 14, quindi alla fine i 14 c'è il punto è però, e questo dobbiamo sempre tenerlo a mente e lo ripeto sempre quasi ad ogni puntata, noi paghiamo stipendi e pensioni facendo debito. Quindi la nostra credibilità sui mercati internazionali è fondamentale, perché se noi perdiamo quella credibilità non ci finanziano più, non finanziano più noi italiani, noi tutti, quindi è fondamentale. In questo momento non è vero che l'Europa non sta facendo niente, perché se siamo in piedi, se l'Italia è in piedi e continua a pagare stipendi e pensioni è perché c'è la BCE che sta dando una grossa mano ai titoli italiani. Beh, tant'è che vediamo lo spread che ancora oscilla attorno a quota 200 e non è schizzato. Teniamo insieme tutti i pezzi, siamo critici perché è giusto essere critici verso quei paesi che non stanno dimostrando di essere all'altezza della situazione, in primis la Germania, perché non mi serve il però, interessa. Barbara, il però. Gli olandesi non li considero da questo punto di vista. Va bene, loro sono quelli dei tulipani. Va bene, caro Fiemeri, questa volta ti saluto veramente e ti auguro davvero buona Pasqua, anche non come voi. Ieri che poi ci siamo ritrovate, fammi sapere la pastiera come ti è venuta, va bene? Tramite. Grazie Barbara Fiemeri, un grande abbraccio, buona Pasqua, qui mi fermo brevemente, siamo di corsa e tra poco ritorno con altri ospiti, siete sempre lì, no? Sempre a casa oppure al massimo state lavorando, se fate dei turni particolari, 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siete lì, state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, soprattutto se siete ovviamente a casa. Roberto Giordano è qui per voi, ma sono qua anch'io al chiuso a raccontarvi come tutti i giorni che cosa succede in Italia e nel mondo a fine giornata. Questo racconto il più chiaro e esauriente possibile con gli ospiti, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp. Vari commenti su quello di cui abbiamo appena parlato, la conferenza stampa di Conte, le tensioni tra maggioranza e opposizione. C'è per esempio chi dice, a proposito del parole che ha definito la nostra commentatrice politica poco istituzionali contro Salvini e Meloni nella conferenza stampa, dice questo ascoltatore: non si fanno neanche annunci alla nazione tramite Facebook quando si riveste il ruolo di premier. E poi invece un altro SMS: l'opposizione attacca costantemente da mesi in assenza dell'altra parte tramite TV e social. Poi un altro ascoltatore che ricorda: Meloni ha detto criminale a Conte. Conte, anche se poi in realtà poi si era corretta, aveva un po' aggiustato il tiro, dico io. E poi un altro ascoltatore: Conte ha fatto benissimo a mettere le cose in chiaro, Salvini e Meloni sono deplorevoli nelle loro polemiche che non portano a nulla di costruttivo. Insomma, naturalmente botta e risposta, come succede anche in maggioranza e opposizione. Adesso però ci occupiamo, andiamo più su una dimensione, diciamo, spirituale, ma non solo, tutto sta cambiando, no? Dall'arrivo nelle nostre vite di questo maledetto coronavirus, e così anche le nostre abitudini quotidiane, così come le tradizioni secolari di portata mondiale, si devono adeguare. È una Pasqua inedita questa, sia per noi, le nostre vite individuali, no? Molti non possono avere la festa in famiglia, la gita fuori porta o la prima fuga verso il mare, e così i riti secolari di portata mondiale come la Via Crucis che sta conducendo in questo momento Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota, con un piccolo drappello di persone, dei rappresentanti. Su questo voglio sentire il nostro Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Caro Carlo. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Anche questa è ovviamente una Via Crucis come mai prima, no? Nel senso che di solito tradizionalmente si faceva il Colosseo, naturalmente con una folla di persone, e anche il Papa deve fare diversamente. Eh sì, diciamo che ormai da un mese circa c'è il lockdown anche di tutte le strutture religiose, sia sul territorio che dentro la Santa Sede, quindi anche San Pietro è chiusa, e tutte le celebrazioni che poi sono partite ieri col Giovedì Santo, Papa da solo, anche oggi pomeriggio. Ricordiamo il Mondo Visione, Carlo, questa Via Crucis. Tutto, sì, sì, tutto il Mondo Visione è visibile in tanti, insomma, in tanti media, tra l'altro. Questo periodo viene rilanciato continuamente il Papa anche dalla TV, che generalmente lo trattano abbastanza ma non così tanto. Diciamo la piazza San Pietro vuota, chi la sta seguendo la vede, io la sto seguendo con voi ora, piazza San Pietro vuota, c'è questo piccolissimo drappello di persone che sono legate a un carcere di Padova. Tutte le meditazioni che vengono inframmezzate tra le letture e le preghiere sono legate al cappellano del carcere, Don Pozza, che parla proprio di carcerati, di storie di carcerati, raccontate naturalmente filtrate attraverso un senso religioso. Il Papa fa delle letture, anche questa è una novità, lui non legge sempre durante, insomma, è stata rivista molto anche la liturgia, sì, di questa prodotta all'essenziale, insomma, come si vede. Vogliamo vedere se sente qualche audio da lì, da Piazza San Pietro. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra. Questa non so se è una suora, una religiosa, comunque sono, non la vedo nelle immagini, Carlo. La piazza, diciamo. E c'è questo piccolo drappello fatto di un carcerato, un prete che è stato accusato per 8 anni, una storia di mala giustizia, che poi è stato assolto, c'è una agente della polizia penitenziaria, e poi ci sono anche dei medici, che sono medici del Vaticano, dell'ufficio medico del Vaticano, a simboleggiare tutti i medici che sono in prima linea in questo momento. Tra l'altro ricordo che oggi il Papa, oggi pomeriggio, ha telefonato alla trasmissione RAI, nota per queste sue... Ah, sentiamolo, questo passaggio dovremmo averlo, questo audio, sì, su Rai 1, è molto, no? È molto, sì, su Rai 1, molto particolare è stato. Vediamo se riusciamo a sentire questo audio, sì. Ma oggi in questo momento penso al Signore crocifisso, no? E le tante storie dei crocifissi della storia, ma quelli di oggi, di questa pandemia. Medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Ecco, Carlo ha ricordato spesso in questi giorni, Papa, in queste settimane, medici e infermieri, donne e uomini che sono in primissimo, sì, anche i preti, in primissima per la linea. Certo, anche preti, anche suore. Preti e suore che sono morti in diversi, perché poi molti fanno assistenza. Tra l'altro ho usato una metafora, come dire, bellica, che credo la prima volta, cioè come al fronte, lui che sono ciò che è guerra sempre un po' trattata tenuto con grande, certa, cioè, distanza. Non ama molto questa chiesa di spada e altare, però questa volta come al fronte, perché il fronte la metafora in questo caso, effettivamente quella. Carlo forte. Marroni, grazie, e anche questo rituale va così, in questo modo. È il nostro mondo che sta cambiando, ma tutti insomma ci adeguiamo insieme. Anche questo dà un grande senso di punto di riferimento, insomma, visto che in Mondo Visione immagino che tanti, anche laici, anche non credenti, probabilmente magari staranno seguendo. Grazie Carlo Marroni, e buona grazie Pasqua a te. Buona Pasqua, buona un abbraccio a tutti. Grazie, ciao caro Carlo. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Loro proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria e una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Oh, e abbiamo sentito vari passaggi di Conte nella conferenza stampa che ha appunto, come vi dicevo, ufficializzato la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio. L'abbiamo parlato varie volte in questi giorni con il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che è il dottor Gerolamo Lacquaniti, che saluto anche questa sera. Buonasera, buonasera, dottor Lacquaniti. Buonasera, dottoressa Giordano, e buonasera a tutti i radioascoltatori. Le cose quindi vengono prorogate, ma non cambiano le regole base, insomma, no? Niente Pasqua, niente Pasquetta, nel senso di andare in giro, gite fuori porta, picnic, riunione con i familiari se non sono già dentro casa tutti insieme, tantomeno raggiungere le seconde case, no, dottor Lacquaniti? Esatto, e questo varrà soprattutto anche per le prossime festività, il che vuol dire che questa proroga non consentirà allo stesso modo come per questa Pasqua di poter uscire o ricongiungersi sia per il 25 aprile sia per il 1 maggio. C'è qualche timida apertura, qualche possibilità per quanto riguarda alcuni attività commerciali, quindi le librerie, le carte librerie, i negozi per bambini e per neonati, e quindi si sarà autorizzati ovviamente a recarsi anche in questi posti, ma per quanto riguarda movimenti più ampi, la possibilità di ricongiungimenti, non c'è nessun cambiamento. Io correrò tra 5-6 mesi, immagino, dottor Lacquaniti, quindi vediamo con calma, insomma, quando sarà possibile. No, capisco il dramma di molti. Sì, no, io ci scherzo ovviamente, perché prima di tutto chi sta soffrendo, tante famiglie in difficoltà, chi non riesce, ha paura di non ripartire con l'attività economica, con le attività produttive, eccetera. Poi dal punto di vista di libertà individuali, che forse quelle di cui ci siamo più occupati, no, con lei, dottor Lacquaniti, diciamo le regole restano quelle, vediamo se dal 3 maggio qualche piccolo spiraglio c'è, però naturalmente sempre restiamo in casa, perché ha detto anche Conte, qui se no si rischia davvero di buttare all'aria tutto il sacrificio che stiamo facendo fino adesso. Assolutamente, proprio per questo io lo ripeto, perché già oggi per noi è stata una giornata impegnativa, nostro malgrado siamo stati costretti non solo ad elevare diverse sanzioni per persone che cercavano di raggiungere le seconde case, ma lo ricordo perché ogni tanto qualcuno mi dice: ma io sono anche pronto a pagare la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro da 400 a 3.000 euro, che poi qualcuno giustamente ricorda: ma io pago subito, sono solamente tra virgolette 280 euro, ma ricordo a tutti che nel momento in cui si viene fermati, si viene poi accompagnati, c'è l'obbligo di rientrare verso il luogo di provenienza, quindi non è assolutamente conveniente al di là dell'impegno economico, ecco. Perché si paga e in più si viene riaccompagnati a casa. Dottor Lacquaniti, ricordo, colgo l'occasione, che oggi si è celebrato il 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Naturalmente è una festa dove non c'è stata la festa, sempre per le misure che ricordavamo, però in presenza, no, è stata depositata al Sacrario per i caduti una corona di fiori a Roma, in presenza della ministra dell'Interno Lamorgese, del capo della Polizia Gabrielli. Mattarella anche ha parlato dell'impegno straordinario, insomma, della polizia. Grazie, sì, per noi questo è un momento importante, anche per noi ovviamente un momento di particolare sacrificio, perché noi siamo poliziotti ma siamo anche cittadini come tutti gli altri e sentiamo di queste restrizioni, però un momento anche di riflessione su quella che è la nostra attività. E se me lo permette, oltre a ringraziarla per questa bella sottolineatura, il momento anche per mandare un messaggio, quello che abbiamo detto oggi come associazione di funzionari, questo è il momento veramente di stare tutti dalla stessa parte. Noi registriamo che in questo momento di difficoltà ci sono delle tensioni sociali, ci sono dei momenti in cui si stanno iniziando a registrare delle criticità che rischiano di compromettere la ripresa del nostro paese. Quindi oggi noi, più che celebrare la nostra attività operativa dell'ultimo anno, diamo uno sguardo al futuro e l'augurio di essere veramente tutti dalla stessa e di uscirne tutti insieme possibile. Il prima possibile e il meglio possibile, sì. Grazie dottor Gerolamo Lacquaniti, un abbraccio a lei, una buona Pasqua, e anche alle donne e agli uomini della polizia e delle forze dell'ordine. Grazie, auguri a tutti i radioascoltatori e anche a lei. Grazie, a presto. Ora ci colleghiamo invece con gli Stati Uniti, c'è il nostro Marco Valsania. Caro Marco, ciao. Ci sono dei numeri che fanno tremare, perché superano i 17.000 morti, gli Stati Uniti si avviano verso i 18.000, vedevo, poi situazione particolarmente... 18.000 sembra che a questo punto li abbiano raggiunti, proprio no? nel loro, in questo orologio che viene diciamo costantemente aggiornato, no? Come... durante anche la conferenza stampa di Trump, adesso sono 18.058 per l'esattezza. Numeri terribili anche lì, mi pare che gli Stati Uniti ormai siano il primo paese al mondo per contagiati e per morti forse ancora davanti l'Italia, ecco, questo purtroppo è questo... possibile che l'Italia sia ancora davanti, adesso non so quale sia, però esatto, avranno superato la Spagna, sì. E come contagiati assolutamente il solo stato di New York è avanti a tutti gli altri paesi del mondo come numero di contagiati, particolarmente difficile, sì, la situazione dello stato di New York. E addirittura dicevo, Marco, anche nei titoli queste immagini scioccanti di fosse comuni nel quartiere del Bronx, dove vanno a finire le vittime del coronavirus che non hanno i soldi per i funerali, oppure i parenti che li, in qualche modo li rivendichino, diciamo. Sì, diciamo che ecco, la situazione è questa, chiaramente con l'aumento delle vittime, le salme che non vengono rivendicate, che non ci sono diciamo richieste di familiari di sepoltura, da sempre diciamo vengono comunque sepolte diciamo così in una zona comune chiamata Hart Island. Ecco, però quello che sta succedendo è che l'ufficio legale della città ha ridotto di molto il tempo in cui diciamo tiene le salme, perché proprio per carenza di spazio, sembrano cose diciamo veramente terribili da dire, ma insomma così è la situazione, per cui non più di 14 giorni, e a quel punto vengono interrate automaticamente in questa fosse, queste fosse comuni a Hart Island, dove vengono diciamo appunto scavate delle specie di lunghe trincee, dove diciamo le bare vengono a quel punto collocate. Hanno cominciato quindi ad aumentare questo numero di bare diciamo senza nome, ecco, collocate. Marco, dice un ascoltatore che non è vero che succede solo adesso, succede anche in altri momenti, ma immagino che non sicuramente con questi numeri, no? No, esatto, è normale, cioè è la sepoltura che non viene rivendicata dalle famiglie, quindi avviene sempre, da sempre. Avrà ben quello altre cifre, però. Ecco. È che esatto, che avviene a questo punto molto di più, molto più in fretta, appunto l'ufficio di medicina legale del comune, della città, ha ridotto a 14 giorni il tempo. Per reclamare questi corpi. Per reclamare i corpi, Marco, ma, e poi li automaticamente li interra. Marco, ci dobbiamo lasciare, ma è vero che Trump ancora oggi, presidente americano, ha assicurato se tutto va come speriamo riapriremo il paese molto, molto, molto presto, ha detto 3 volte. Questo è il grande dibattito. Nell'amministrazione si sa che Trump vorrebbe già aprire il 1° maggio, cioè il giorno dopo, alla fine diciamo del lockdown che aveva dichiarato, del social distancing. Però oggi diciamo è rimasto un po' più generico, ha detto ascolterò comunque i miei esperti, ed ma è chiaro. Ha ribadito appunto che quella è la sua intenzione e che formerà una commissione che annuncerà la prossima settimana proprio per studiare comunque la riapertura. Beh, certo, tra l'altro questo certo. Avviene sì. Mentre le previsioni diciamo di morti, se il paese riaprisse davvero il 1° maggio, sì. Balzerebbero da 100 a 200 mila. Non vogliamo, neanche pensarlo. Infatti, esatto. Marco, se erano girate purtroppo queste cifre. Io ti devo salutare, Marco Valsania da New York. Un abbraccio forte e buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Ciao, Marco. A voi, grazie a voi e a buona Pasqua. Ciao. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore. Che tempo vedremo fuori dalla finestra, Carlo Paolo Corazzon di Trebi Meteo? Non ricordo gli anni con una Pasqua così bella. È una cosa terribile, guarda. È una cosa terribile. Tutti gli anni ci siamo ritrovati a dire Pasqua, Pasquetta, brutto tempo, piove, eccetera. No, domani invece. Ma dopo non domani. Credere, domani dopo temperature fino anche a 26-27 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, sole da nord a sud, faremo fatica a trovare una nuvola. Invece Pasquetta qualche velatura, qualche nuvoletta di passaggio al centro-nord, ma anche lì nomi di poco conto, davvero un nervoso. Vabbè, ci rifaremo quando potremo, che vuoi che ti dica. Vogliamo la pioggia, vogliamo la pioggia, cerca di concentrarti, è una volta unica in cui vogliamo tanta, tanta pioggia, Paolo Corazzon. Che tu lo dica, comunque hai ragione. Grazie, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a te, un abbraccio Paolo Corazzon. Grazie. Ciao, a presto. Ciao! sentiamo alle 22.